coccolati con il cioccolato caldo e nero. Capitan Rimorso e il dottor Divago battibeccano sul divano una vita insieme. Sorrisi sardonici, mascelle quadrate, si specchiano in una demolizione maxillo, facciale fondente. Lui, precaria massaia in carriera. Lui, preclaro disoccupato intellettuale, il terziario avanzato che avanza compatto, a testuggine bassa, nello smarrimento ceto medio. Il tormentone estivo, bene o male, impazza. John Barleycorn must die, mio appiglio, istantaneo. Mentre, malgrado me, accumulo penalità karmiche nel macero mistico.